i doni della persona dello Spirito Santo al servizio della Chiesa. La resurrezione di Gesù Cristo ha marcato in senso assoluto un evento unico in tutti i tempi, al punto da non poter essere paragonato a nessun altro avvenimento, né da poterne mettere in discussione l'unicità. Si sa che volendo far colpo sugli ascoltatori si debba annunciare una notizia particolare ma credibile. Il cristianesimo, come ogni religione, ha le sue particolarità, ma non per questo sarebbe unico. La fede cristiana, però, vanta un qualcosa di più, e cioè di un messaggio non credibile. Come non è credibile che una vergine rimanga incinta, così molto di più, non è verosimile che un morto risorga per non morire mai più. Nessuna religione propone la resurrezione del proprio fondatore, proprio perché ovviamente nessuno sarebbe disposto a crederci. Eppure, i cristiani, pur conoscendo l'assurdità del loro messaggio, hanno osato proporre al mondo il messaggio di Gesù risorto. Non solo. Per questo messaggio essi sono anche morti, soffrendo atrocemente. Da un certo punto di vista niente di straordinario, perché molti religiosi per la loro fede si sono sacrificati, ma gli apostoli avevano un altro particolare. Essi non avevano posto una fede cieca in ciò che era stato loro trasmesso, come fanno i credenti delle altre religioni. Sono morti, invece, a causa della loro testimonianza. Essi sostenevano di aver visto Gesù Cristo risorto e testimoniavano che lui era il Figlio di Dio, il Re dei Re. Come da sempre, una persona sana di mente, logica, sa che un morto non può risuscitare, perciò non può porre fede nel cristianesimo, a meno che non creda che Gesù sia Dio. Se Cristo Gesù è Dio, allora anche la resurrezione ha senso. Anche in questo aspetto il cristianesimo è dunque unico. Perché parlare a difesa della resurrezione di Gesù nell'affrontare il tema dei doni dello Spirito Santo che Dio ha distribuito ai suoi figli per un servizio nella Chiesa? Che rapporto esiste tra i doni che i credenti ricevono e la resurrezione di Cristo? Se Gesù non fosse risorto, le conseguenze sarebbero state non solo gravi, ma fatali, perché la Bibbia direbbe il falso, dato che testimonia della sua resurrezione, i cristiani non sarebbero salvati perché avrebbero creduto in una menzogna e morti non risusciterebbero perché la tomba pone fine ad ogni cosa. Vana sarebbe la predicazione del Vangelo perché il miracolo della resurrezione ne costituisce il centro. Gli apostoli sarebbero stati tutti dei falsi testimoni perché hanno sempre affermato questo. Gesù non potrebbe intercedere per i cristiani ed essere alla destra di Dio. I cristiani aspetterebbero in vano. Soprattutto, se Gesù non fosse risorto, i credenti non avrebbero ricevuto i doni dello Spirito Santo. In merito ai doni occorre fare una premessa. Dono è la traslazione del vocabolo greco carisma, termine riferito a tutto ciò che si riceve per grazia, cioè in modo immeritato, e che produce del benessere. Così, l'Apostolo Paolo usa la parola dono o carisma in riferimento al perdono dei peccati, oppure alla vita eterna, per tutti coloro che hanno posto una fede salvifica in Cristo. A questi doni, Dio ne aggiunge anche altri, quali la grazia di essere preservati ogni giorno dai pericoli e dalla morte, 2 Co. 1.1.1 di poter vivere in modo conforme alla nostra chiamata, 1 Co. 7.7, senza dimenticare tutti gli altri doni giornalieri come la comunione con Cristo, la vittoria sul peccato, la parola di Dio e la capacità di leggerla e comprenderla per lo Spirito Santo, l'inestimabile dono della comunione fraterna, la grazia di poter gioire e soffrire per Cristo, di testimoniare con franchezza della nostra scelta di fede e tanti altri. Se poi consideriamo di possedere la salute, una famiglia, di vivere nel benessere e nella pace, per un credente non esiste neppure la minima possibilità di lamentarsi della propria esistenza. E se un giorno tutto ciò dovesse venire a mancare a causa della nostra fede o per gli insondabili piani di Dio, anche in quel momento il credente dimostrerebbe di avere compreso i doni o la grazia di Dio, continuando ad essere riconoscente e fedele perché sa che ogni cosa contribuisce al suo bene. Non solo. Nel considerare le avversità della vita, l'Apostolo Paolo termina in un grido di vittoria così espresso: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada. Come sta scritto, per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello. ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. RM 8.3537. Ecco cosa compie la consapevolezza. I doni della persona dello Spirito Santo al servizio della Chiesa, di possedere i grandi e innumerevoli doni di Dio nella vita del credente, vincere o trionfare in tutte le situazioni, soprattutto in quelle dove gli uomini senza Dio sono sconfitti. Non dimentichiamo che il progresso cristiano non consiste nel raggiungere un modello di vita da noi stabilito, ma nello scoprire ciò che si possiede per lo Spirito Santo e nel cercare di realizzare nella propria esistenza ciò del quale si è già in possesso. Il vero problema del cristiano non è la consapevolezza di possedere o meno dei doni, ma come essi debbano essere vissuti. In effetti, uno studio in merito ai doni mette in evidenza che essi hanno valore solo se sono esercitati mediante l'amore. In questo caso, solo la sapienza di Dio può aiutare. I doni che andiamo a esaminare quindi non sono gli innumerevoli e svariati in genere, ma quelli assegnati da Dio mediante la persona dello Spirito Santo per il servizio alla Chiesa. Questo argomento suscita molti interrogativi, quali ad esempio 1. Come posso sapere di aver ricevuto un dono? 2. Come si ricevono i doni? 3. Perché l'argomento dei doni deve coinvolgere tutti? 4. Cosa deve fare il credente per conoscere il proprio dono? 5. Perché Dio ha dato dei doni? 6. Come vengono distribuiti i doni? 7. Quanto dura un dono? 8. Cosa si deve fare per non perdere il dono? 9. Come praticare il proprio dono? 10. Cosa occorre fare dopo aver esercitato il dono? Rispondere a queste 10 domande aiuta ad avere una vita che può glorificare meglio Dio e il suo regno. 1. Come posso sapere di aver ricevuto un dono? Non a caso abbiamo messo in relazione la resurrezione di Gesù con i doni, perché se ogni credente confida senza averlo visto che Gesù è risorto, deve pure credere di possedere almeno un dono, anche se sul momento non lo vede o non lo riconosce. Così come la fede nella resurrezione di Gesù è basata sulla parola di Dio, l'essere convinti di possedere la ricchezza dei doni dello Spirito Santo proviene pur sempre dalla medesima fonte. L'Apostolo Paolo ne dà testimonianza nella lettera agli Efesini e, come sua consueta abitudine, per dimostrare che ogni credente possiede almeno un dono, cita quella che allora era l'unica fonte di verità come parola di Dio, e cioè l'antico patto. Ma a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per la qualcosa la Scrittura dice: essendo salito in alto, egli ha condotto prigioniera la prigionia e ha dato dei doni agli uomini. EF 4.78. Dunque, è la parola di Dio a testimoniare al credente di essere in possesso di un dono, perché Gesù è risuscitato e dal cielo. Non vi è altro da aggiungere. Come la certezza della salvezza è basata solo e esclusivamente sulla testimonianza della parola di Dio, così è per la consapevolezza di possedere un dono dello Spirito. Essa riposa sulla dichiarazione della Santa Scrittura. Perciò chi si professa credente e dubita di possedere un dono dovrebbe interessarsi non tanto al dono, ma piuttosto se ha realmente posto fede in Cristo. Credere a ciò che Gesù ha detto non vuol dire essere certi solo della salvezza della propria anima, ma esserlo anche in merito a tutte le altre promesse, tra le quali quella di aver ricevuto un dono al servizio della Chiesa. Senza questa certezza e consapevolezza, la Chiesa ha un membro debole e passivo, divenendo in questo modo l'anello debole della grande catena di Dio. Una responsabilità non da poco. Occorre anche riconoscere che alcuni credenti sono alla ricerca del proprio dono, ma non secondo il volere di Dio. In apparenza, cercare di comprendere quale sia il proprio dono pare sempre una buona cosa e un grande atto di spiritualità. Ma come la preghiera e ogni altra espressione cristiana, se non è motivata da buoni propositi, pur essendo un bene, si trasforma in male, altrettanto è per la ricerca in merito al proprio dono. Così si possono ricercare i propri doni perché nel manifestarli ci si sente realizzati o si pensa che sia un mezzo per edificare la Chiesa, ma in realtà a produrre del benessere nella Chiesa non sono tanto i doni quanto l'amore che procede da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta. Un Terametro 1.5. Non a caso l'Apostolo Paolo, in una lettera indirizzata a credenti che cercavano i doni al di sopra di ogni altra cosa, affrontando il tema in questione, ha interrotto il corso del suo logico discorso in merito per illustrare e elevare la necessità dell'amore. Infatti, nella prima lettera ai Corinzi, Paolo tratta abbondantemente il tema dei doni spirituali, ricordando chi li dona, da dove provengono. Tuttavia, prima di citare il dono delle lingue, così tanto maggiormente ambito dai Corinzi, tronca il suo discorso dicendo: «Ora vi mostrerò i doni della persona dello Spirito Santo al servizio della Chiesa Via, che è la via per eccellenza», 1 Co. 12.3.1. E prosegue: «Quand'anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho amore, divento un bronzo risonante o uno squillante cembalo. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non ho amore, non sono nulla. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo per essere arso, ma non ho amore, tutto questo niente mi giova». A nessuna chiesa come quella dei Corinzi Paolo ha fatto l'elogio di non mancare di nessun dono. Eppure fra di loro dimoravano i peggiori peccati e disordini. Perciò l'Apostolo inizia il discorso sottolineando che qualsiasi dono come quello delle lingue, della profezia, della conoscenza, della fede, dell'altruismo, non valgono nulla se non sono motivati o prodotti come un atto di amore. E una riflessione da valutare seriamente, soprattutto da parte di chi considera l'uso dei doni quale massima espressione di spiritualità. È un grave errore basare la spiritualità di una persona semplicemente sull'esercizio dei doni ricevuti, perché questi non dipendono dalla statura spirituale del possessore, ma dalla volontà di Dio. La necessità più grande della Chiesa è avere uomini che Dio possa usare e non il possesso di maggiori doni, perché troppo spesso si verifica che gli altri siano aiutati dai nostri doni per essere purtroppo in seguito ostacolati da quello che siamo. Più di una volta il brutto carattere dei santi o un carattere non modellato da Dio ha prodotto danni irreparabili in una chiesa. Così chiediamoci come sapere di aver ricevuto un dono, ma soprattutto interroghiamoci se abbiamo l'obiettivo o se lo esprimiamo sempre come atto di quell'amore che procede da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta. 2. Come si ricevono i doni, o meglio, come e perché si manifestano i doni? Se la resurrezione di Cristo è stata la condizione per ricevere i doni, la persona dello Spirito Santo è il mezzo che Dio usa per manifestare i doni nei Suoi figli. Questa verità va spiegata. A 2000 anni di distanza dalla venuta di Gesù, parlare della persona dello Spirito Santo e la manifestazione dei Suoi doni non fa più effetto. Come non fa più effetto comunicare senza fili all'altro capo del mondo? Così come è possibile comprendere il grande evento della tecnologia telefonica, solo essendo in grado di calarsi nel periodo storico precedente l'era di Marconi, altrettanto è possibile comprendere cosa significa oggi ricevere dei doni mediante lo Spirito Santo solo se si conoscono i piani di Dio. Anche se fin dal secondo versetto della Genesi notiamo che si vibrava sull'acqua e la persona dello Spirito Santo, al contrario, l'Antico Patto annuncia che questa grazia sarà accordata soltanto dopo la morte e la resurrezione di Gesù. Anche da una lettura superficiale notiamo che lo Spirito Santo era dato solo temporaneamente ai credenti dell'Antico Patto e che poteva essere ritirato. Sansone agì sotto l'azione della persona dello Spirito, ma in seguito Dio si ritirò da lui, Giudici 16 e 20. Saul fu investito dalla persona dello Spirito di Cristo, ma in seguito leggiamo: «Or lo Spirito dell'Eterno si era allontanato da Saul, e un cattivo spirito da parte dell'Eterno lo terrorizzava». 1 Samuele 16 e 15. Ecco perché Davide, benché investito dallo Spirito dell'Eterno, 1 Samuele 16 e 14, pregò: «O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Santo Spirito. Salmo 51, 10-11. I santi dell'Antico Patto erano quindi coscienti che lo Spirito Santo ricevuto non era un dono permanente. Perciò si comprende che lo scopo della persona dello Spirito di Dio prima della resurrezione di Gesù era quello di investire l'uomo per dei compiti particolari. Per i credenti del periodo antecedente, la venuta di Cristo dunque essere investi dalla persona dello Spirito Santo rappresentava un privilegio non accordato a tutti. Proprio per questo, mediante i profeti, l'Eterno promise che sarebbe giunto il tempo nel quale lo Spirito sarebbe stato sparso su ogni credente. E i timorati di Dio erano in attesa di questo evento. Le parole rivolte da Gesù ai discepoli dopo la sua resurrezione non lasciano dubbi. Così racconta Luca. E ritrovandosi assieme a loro comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre. Che egli disse: «Voi avete udito da me, perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni». Atti 1:4-5. I doni della persona dello Spirito Santo al servizio della Chiesa. Dunque, dal giorno della Pentecoste la persona dello Spirito Santo è promessa a tutti i credenti. Atti 2:39. Entra nell'individuo per fede e vi rimane in perpetuo, come disse Gesù. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Consolatore, perché stia con voi per sempre lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. Giovanni 14:15-17. L'Evangelista Giovanni, corredandolo di un commento personale, riporta il discorso di Gesù nell'ultimo giorno della festa delle capanne con «nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa». Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno meno». Disse questo dello Spirito, che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito infatti non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato. Giovanni 7:37-39. Il suo commento: «Lo Spirito infatti non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato», era in relazione non tanto allo Spirito Santo in sé, perché esso era stato dato fino a quel giorno, ma si riferiva alla funzione che egli avrebbe avuta dopo la sua resurrezione e glorificazione. Infatti la persona dello Spirito Santo ricevuta dagli Apostoli il primo giorno della settimana, Giovanni 20:22, aveva un compito diverso da quello elargito loro il giorno della Pentecoste, Atti 2:4. Vero che Pietro afferma che i profeti dell'Antico Patto avevano lo Spirito di Cristo in loro, 1 Pietro 1:11. Ma tale espressione è simile a quella che leggiamo nella lettera agli Ebrei, dove alcuni sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, ma non erano salvati, e tantomeno figli di Dio, Ebrei 6:4. Essere partecipi, guidati, spinti, controllati dalla persona dello Spirito Santo non significa diventare automaticamente figli di Dio. Infatti, sia il pagano Neco, re d'Egitto, 2 Cronache 35:22, sia l'incredulo Caiafa, il sommo sacerdote al tempo di Gesù, Giovanni 11:51, tanto per citare due casi, profetizzarono da parte di Dio per mezzo della persona dello Spirito Santo. Se poi pensiamo a quando lo Spirito, agendo in un'asina muta, la rese capace di parlare al profeta Balaam al fine di reprimerne la sua follia, Numeri 22:30, allora indubbiamente manifestare l'azione della persona e dello Spirito Santo non è sinonimo di appartenere a Dio. Questo dovrebbe far riflettere tutti coloro che sono entusiasti di essere guidati dallo Spirito. È possibile esprimere un dono e, come disse Gesù, andare in perdizione. Quando Gesù disse: «Io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Consolatore», cioè la persona dello Spirito Santo, non indicava un altro spirito, ma che lo Spirito di Dio avrebbe esercitato una funzione fino a quel momento mai ancora esercitata. Di questo Spirito, per bocca dei profeti, per mezzo di Gesù e degli Apostoli, l'Eterno parla come di una promessa. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Ezechia 36, 26-27. Gesù disse, ed ecco io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi rimanete in questa città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Lecci 12:49. E Pietro a loro, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono del Santo Spirito, perché per voi è la promessa, per i vostri figli, e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore, nostro Dio, ne chiamerà a meno. Atti 2:38-39. In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità, fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. Efe 1:12-13. La persona dello Spirito Santo, che nel giorno della Pentecoste scese sui discepoli dunque, era lo Spirito profetizzato da millenni, e gli Apostoli erano coscienti di vivere il periodo profetizzato da Dio. Ma gli ebrei, come popolo di Dio, credevano di essere i soli eredi a ricevere lo Spirito Santo. In effetti tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro da Cornelio rimasero stupiti del fatto al servizio della Chiesa, che il dono della persona dello Spirito Santo fosse sparsa anche sui gentili, Atti 10. Essi avevano dimenticato che l'Eterno aveva parlato per bocca di Mosè riguardo agli stranieri. Essi mi hanno fatto ingelosire con ciò che non è Dio, mi hanno irritato con i loro idoli vani, e io li renderò gelosi con gente che non è un popolo, li irriterò con una nazione stolta. Deuteronomio 32:21. La salvezza dei gentili e la ricezione dello Spirito Santo dunque era nei piani di Dio prima della creazione del mondo. Perché tanta enfasi sulla persona dello Spirito Santo come promessa a tutti i credenti con un compito diverso? Innanzitutto perché in genere i credenti non hanno le idee chiare in merito. Poi perché dopo la resurrezione di Gesù la persona dello Spirito che rigenera il credente e dimora in lui per sempre, oltre a farlo diventare figlio di Dio, manifesta i doni al servizio della Chiesa come Dio vuole. È importante sottolineare che la persona dello Spirito manifesta i doni e non li comunica, come del resto erroneamente si dice, perché i doni di parola, di sapienza, delle lingue, di governo, eccetera, non sono doni comunicati al credente alla stessa stregua di un genitore che regala un pallone al figlio. I doni non sono altro che la manifestazione concreta della presenza della persona dello Spirito dimorante nel credente. Perciò, se il credente ha il dono di parola, di sapienza, delle lingue, di governo, non è per una capacità intrinseca donata da Dio e per la realizzazione della quale ora il credente deve impegnarsi con tutto se stesso, ma è sufficiente una completa sottomissione alla persona dello Spirito. Questa è la grande rivelazione del nuovo patto. È la promessa che stanno vivendo tutti i credenti dopo la resurrezione di Gesù. Rispondendo a come si ricevono i doni, si parte con il piede sbagliato, perché la domanda presuppone che il credente possegga qualcosa indipendente dalla persona dello Spirito, mentre la richiesta più corretta sarebbe come e perché si manifestano i doni nel credente, la cui replica è ormai ovvia. Nel momento della nuova nascita il credente riceve la persona dello Spirito Santo, la quale manifesta il suo carattere divino. Queste manifestazioni vengono chiamate doni dello Spirito, perché si è partecipi e collaboratori dell'azione dello Spirito. Si è partecipi della persona dello Spirito, quello santo, perché egli usa il nostro corpo. Si è collaboratori della persona dello Spirito, perché da parte nostra occorre una totale sottomissione alla sua volontà, chiamata pienezza dello Spirito Santo. Così chi ricerca la pienezza dello Spirito o il battesimo nello Spirito per poi ricevere dei doni come quello delle lingue, non ha compreso il piano di Dio. La persona dello Spirito Santo è in tutti coloro che hanno posto una fede salvifica in Cristo, e la forma mediante la quale la persona dello Spirito manifesta la propria presenza è condizionata dalla volontà di Dio. Infatti, per togliere ogni dubbio, Paolo ha detto: «Or tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, che distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come vuole». 1 Cor 12.11. Lo scopo del cristiano non è tanto compiere cose grandi o possedere grandi doni, ma sottomettersi ai piani di Dio. La preghiera, insegnata da Gesù, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo, è riferita anche ai doni. E l'amore per Cristo può fare anche questo. Chi ha compreso questa grande verità? 3. Perché l'argomento dei doni deve coinvolgere tutti? Vi sono argomenti della parola di Dio che non coinvolgono tutti. A un giovane potrebbe anche non interessare uno studio relativo a come vivere serenamente la propria vecchiaia, così come vivere in castità. Il proprio fidanzamento difficilmente susciterebbe l'interesse di una coppia di sposi. Ma quando si parla di doni, ogni credente ne è coinvolto, sia che abbia un'età avanzata, sia che abbia una giovane età. Lo stesso dicasi di chi è sposato oppure no, di chi ha un titolo di studio oppure ha una minima istruzione. Perciò tutti i figli di Dio sono seriamente coinvolti nel comprendere la manifestazione dei doni della persona dello Spirito in loro e devono dedicarsi con il massimo impegno affinché tali doni siano usati per la Chiesa, perché se ci è una cosa che Dio non tollera, anzi odia, è la pigrizia. Troviamo questo atteggiamento nella parabola dei talenti, dove Dio condanna severamente colui che non ha fatto fruttare ciò che aveva ricevuto. Nella parabola del fico che non faceva frutti, figura di Israele, e che Dio taglia perché ozioso. Nell'episodio del fico trovato privo di fichi primatici e di conseguenza maledetto da Gesù. Mer 11, 13-21. Nella distruzione di Sodoma e Gomorra perché vivevano nell'ozio. Ezechiele 16,49. I doni della persona dello Spirito Santo al servizio della Chiesa, perciò il carattere di Dio, che è principalmente un Dio operante, odia l'ozio, la pigrizia, l'inattività. Questo suo atteggiamento non è cambiato, soprattutto ora con l'approssimarsi del ritorno di Cristo, perché, secondo le profezie, i credenti saranno demotivati dalla malvagità degli uomini, dalla loro indifferenza verso la verità, dall'amore che gli uomini avranno per il piacere. Saranno tentati di gettare la spugna, di tirare i remi in barca e lasciare che le cose vadano come devono andare. Ma l'esortazione di Gesù ci deve spronare: vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Quale mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà così occupato, io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. MT 24, 42-47. Vigilare non significa solo stare attenti, ma usare anche i doni al servizio della Chiesa per il bene di tutti, affinché Gesù possa raccogliere i suoi frutti. L'argomento dei doni interessa ogni credente, anche perché egli, che lo voglia o no, è inserito in un'organizzazione che la Scrittura paragona ad un corpo. Nel corpo umano le diversità delle membra, che la loro unità si rivelano felicemente associate, e qualsiasi dono ben esercitato questo non può essere espresso in modo anarchico. La consapevolezza del dono deve essere associata alla consapevolezza di avere una interdipendenza con altri doni. Purtroppo vi sono credenti che dicono: «Faccio solo ciò che io trovo giusto. Non mi importa quello che pensano gli altri, a me basta essere in regola con il Signore». Questa presa di posizione sembra avere una parvenza di santità, un alto livello morale, ma nasconde una grossa insidia: l'orgoglio. Prima di tutto, chi si esprime così non è detto che sia in regola con il Signore. Al massimo è in pace con la sua coscienza, ma vivere in armonia con la propria coscienza non significa automaticamente essere nella volontà di Dio. Inoltre, chi pensa così rincorre un'utopia, perché tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri. È un cristianesimo ridotto ad uso individuale è una contraddizione in termini. Ancora una volta è opportuno sottolineare che la spiritualità di una persona non si misura dal dono, ma dall'uso di questo, perché il dono è solamente il risultato di una decisione della persona dello Spirito Santo, mentre il suo utilizzo dipende anche dal soggetto destinatario. Qualcuno potrebbe avere un meraviglioso dono di profezia, edificare la Chiesa con i suoi insegnamenti, ma se l'esercizio del suo dono è motivato dal mettersi in mostra o fare effetto su chi ascolta, mentre lo Spirito Santo ha compiuto la sua opera, tramite lui, il credente stesso non sarà premiato e verrà condannato. Se è l'amore a rendere valido l'esercizio dei doni, il più grande obiettivo del credente sarà allora quello di permettere a Dio di fare in lui ciò che non ha mai fatto prima. Permetterà alla persona dello Spirito non solo di manifestare in lui i doni che vuole, ma anche esprimerli con l'amore necessario. Spesse volte un dono di profezia può creare grossi problemi in una chiesa, se chi lo possiede non impara a stare in silenzio. Quando è il momento, 1 Co 14.29, o a tenere per sé certe convinzioni se queste turbano il prossimo, 1 Co 14.1.13. Lo scopo ultimo nell'esercizio di ogni dono nella Chiesa è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e una fede sincera, un terametro 1.5. Per questo l'argomento dei doni interessa ogni figlio di Dio, perché egli deve avere il massimo obiettivo di edificare la Chiesa, il che significa esercitare l'amore. I doni sono solo strumenti al servizio dell'amore, anche perché i doni spariranno mentre l'amore rimane in eterno. 4. Cosa deve fare il credente per conoscere il proprio dono? Se ogni credente ha dei doni, e questi devono essere messi al servizio della Chiesa, è normale che egli ponga interesse a conoscere il dono che la persona dello Spirito manifesta in lui. Però, anche in questa ricerca è necessario guardarsi da alcuni errori, il primo dei quali è la mancata accettazione del dono o dei doni di cui Dio ci ha fornito per ricercarne altri personalmente più desiderabili. Qualcuno potrebbe cercare il dono delle lingue o quello dell'insegnamento solo perché sono più remunerativi dal punto di vista della stima, ma la decisione dei compiti per costruire la casa di Dio spetta solo al gran costruttore, il quale distribuisce i doni come vuole. Perciò, anche se in una chiesa per un certo tempo mancassero dei doni e di conseguenza dei ministeri, non vi è certo ragione. I doni della persona dello Spirito Santo al servizio della Chiesa, perché tale insufficienza debba essere supplita da alcuni fratelli privi dei carismi adatti a tali compiti. Tolta ogni ambizione sbagliata, il credente che non comprende il proprio dono rimane sì alla ricerca dei doni, ma intanto si dedica anima e corpo al servizio della Chiesa. Infatti, nella scala degli atteggiamenti che portano a realizzare l'amore, che è il vincolo della perfezione, l'apostolo Pietro mette la consapevolezza di possedere il dono al terzo posto. Anche voi, per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. 2 Pt 1.57. Dunque, alla fede che ci introduce nella Chiesa di Dio, occorre aggiungere prima di tutto la virtù, cioè il massimo impegno per compiere ogni cosa buona. E, in questo modo che il credente può conoscere il proprio dono, cioè lavorando. Del resto niente di particolare, perché nella vita si scopre di avere certe capacità o attitudini soltanto mettendole in pratica. Quando Mozart, prima di raggiungere l'età di 6 anni, metteva mano al pianoforte e ne faceva uscire della musica orecchiabile, non c'era bisogno di chiedersi se avesse attitudini musicali, così come Alessandro Volta non si chiedeva se aveva il talento dell'inventore. Egli inventava e basta. Così, un credente che ha attitudini allo studio e alla ricerca è un possibile candidato a diventare un predicatore della parola o un insegnante, mentre molto probabilmente un forte desiderio di aiutare il prossimo sarà insito in colui nel quale lo Spirito Santo agisce per compiere opere di misericordia. Rom 12.8. Dato che nessun dono può essere in conflitto con le nostre caratteristiche naturali, meno perché un insegnante non può essere analfabeta come un conduttore di chiesa non può essere nato di nuovo da poco, meno la cosa più saggia ricercando il proprio dono è considerare dunque anche le nostre inclinazioni naturali. Fino a questo punto non si è detto nulla in merito alla preghiera in relazione ai doni. Generalmente, quando si ricerca la volontà di Dio, la prima cosa che si fa o che si consiglia è pregare Dio perché riveli quali doni si possiedono. Ma, benché la preghiera sia indispensabile, propizia e da incoraggiarsi, nasconde un grande pericolo. Nella preghiera ci sono tante insidie, ma quando si tratta di doni, queste sembrano moltiplicarsi. Perché? Perché il nostro cuore è malvagio e ingannevole più di ogni altra cosa. E richiedendo una cosa bella, piacevole, seducente, quali i doni, spesso si diventa disonesti intellettualmente. Ho presente un giovane che mi chiedeva consiglio in merito al dono posseduto, ma mentre mi parlava mi rendevo conto che era letteralmente sedotto da un altro dono. Mi diceva di pregare per conoscere la volontà di Dio, ma che durante la preghiera si sentiva attratto a svolgere un certo compito, e guarda caso proprio quello verso il quale nutriva una profonda ammirazione. A nulla valsero le mie parole per scoraggiarlo a svolgere un certo lavoro. Se ne andò sempre più convinto di possedere il dono verso il quale era attratto. Come si è detto, i doni dello spirito vanno in armonia con le nostre inclinazioni naturali, ma è molto difficile comprendere veramente ciò che la persona dello spirito opera in noi quando si hanno delle forti attrazioni. Anche la preghiera a volte non è in grado di aiutarci a comprendere la volontà di Dio. Così, quel giovane, dopo vari fallimenti, si rese conto di non essere stato chiamato a svolgere l'attività alla quale aspirava, dimostrando ancora una volta che le convinzioni non ottenute dalla preghiera a volte sono raggiungibili tramite l'esperienza. Occorre pregare, è necessario avere uno spirito di preghiera. Ma questo atteggiamento deve essere complementare all'esperienza quotidiana, lo strumento mediante il quale permettere a Dio di indicarci quale sia la sua giusta, buona e accettevole volontà. Per non essere sedotti dalla popolarità che può derivare dal possesso di un dono, è bene essere attirati o attenersi alle cose umili, anche perché è meglio scoprire in seguito di avere un dono considerato e stimato da tutti, che rendersi conto di doversi occupare di cose molto più umili. Appena diventato un figlio di Dio, ho servito i miei fratelli in fede in ogni cosa, ma in seguito la Chiesa mi fece occupare posti di responsabilità. E questo perché un dono, quando ci è, non può essere offuscato da un altro servizio. Cosa deve fare dunque il credente per conoscere il proprio dono? Mettersi a disposizione della persona dello Spirito per ogni eventuale servizio, ed essa opererà. Ma soprattutto deve ricordare che le profezie e la scienza saranno abolite, che il dono delle lingue cesserà e che solo gli atti d'amore rimarranno in eterno. I doni della persona dello Spirito Santo al servizio della Chiesa 5. Perché Dio ha dato dei doni? Da sempre gli uomini hanno ricevuto dei doni da parte di Dio, e chiedersene la ragione sembra una domanda inutile, ma anche le mele sono sempre cadute a terra. Eppure si è capita la legge di gravità quando qualcuno si è chiesto perché non cadessero in alto. L'Apostolo Paolo risponde abbondantemente all'interrogativo, e questo fa pensare quanto a Paolo premesse che i credenti fossero consci del motivo per cui si possiedono dei doni, spinto anche tra l'altro dal loro utilizzo improprio esercitato dai Corinzi. Così si esprime nella prima lettera a essi rivolta: ora, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo ai doni spirituali. Voi sapete che quando eravate gentili, eravate trascinati dietro gli idoli muti, dietro l'impulso del momento. Perciò vi faccio sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice Gesù è anatema, e che altresì nessuno può dire Gesù è il Signore, se non per lo Spirito Santo. Or vi sono diversità di doni, ma non vi è che un medesimo Spirito, vi sono anche diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore. Vi sono anche diversità di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio il quale opera tutte le cose in tutti. Ora ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. 1 Cor. 12:1-7. Ancora una volta Paolo mette in evidenza che i vari doni in possesso dei credenti sono il risultato dell'opera della persona dello Spirito Santo, e che essa non può avere manifestazioni diverse dalla sua natura divina, così che nessuno insegna errori dottrinali per lo Spirito e neppure di sostenere verità senza l'opera della persona dello Spirito Santo. In definitiva, tutto ciò che esce dalla bocca del credente corrisponde a verità, non è l'atto di una sua capacità umana, ma è il risultato dell'azione dello Spirito. Mentre tutto ciò che il credente produce di sbagliato è il risultato della sua natura umana. Una simile riflessione calata nella nostra realtà quotidiana è di una importanza vitale. Perché molto spesso i credenti non sanno distinguere quando un fratello parla da parte di Dio o parla di suo, e la parola di Dio, che è la verità, è il metro di misura per valutare il vero dal falso. Non sono dunque le confessioni di fede e neppure il si è sempre fatto così a definire il vero, ma il Dio Trino che usa la sua parola capace di mutare convinzioni e tradizioni anche millenarie. Per questo un cattolico romano deve mutare l'abitudine di rivolgere preghiere ad altre persone, all'infuori di Gesù, il quale è il solo mediatore tra Dio e gli uomini, come il protestante liberale. Deve smettere di leggere la Bibbia considerandolo un libro di miti e favole per credere alla storicità degli eventi descrittivi così come sono. Una volta stabilito che ogni verità espressa dall'uomo procede dallo Spirito di Dio, Paolo mette in evidenza che a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. Dunque, i doni che i credenti manifestano non sono fine a se stessi, così come un fiore non profuma per se stesso, ma essi sono dati perché tutta la Chiesa ne tragga un vantaggio. Già questo aspetto dovrebbe far riflettere chi possiede un qualsiasi dono che esercita una certa influenza nella comunità cristiana. Perché ancora una volta è posta l'enfasi non tanto sulla validità o meno del dono, ma sull'espressione di questo che deve essere con amore, quell'amore che cerca il bene del prossimo, e non il suo interesse che può essere manifestato anche nel vanto di comunicare il dono stesso. Se i credenti credessero che l'espressione più importante e vitale in una comunità non siano i doni, ma l'amore che è il vincolo della pace, si farebbe a gara nello stimarsi l'un l'altro, si cercherebbe di non imporre nessun ostacolo al fratello in fede, e si accoglierebbero i fratelli più deboli non per discuterne le opinioni, ma per comunicare loro qualche grazia. I doni che mette in evidenza la persona dello Spirito sono sì un dono di Dio, ma si possono trasformare in micidiali armi mortali, per il prossimo e per la comunità se non sono setacciati dall'amore. E perché queste riflessioni possano incidere la nostra mente, occorre leggere la parola di Dio in questa ottica, come, per esempio, ciò che scrive Giacomo. Da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Non provengono, forse, dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? Voi desiderate e non avete. Voi uccidete e portate invidia, e non riuscite ad ottenere. Voi litigate e combattete e non avete, perché non domandate. Voi domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. D.C. 4:1-3. Una normale lettura attribuisce ai disordini di questi credenti ad un cuore malvagio. Ma poiché è mia abitudine non partire dal presupposto che gli altri siano tutti malvagi e io giusto, perché anch'io a volte mi trovo in conflitto con altri credenti senza per questo avere i doni della persona dello Spirito Santo al servizio della Chiesa. Allora un'altra lettura più consona a questi credenti può essere che facendo cose giuste, a volte si possono creare forti difficoltà, non si litiga a volte per giuste ragioni bibliche e, forse perché non si agisce con amore, non si chiedono a volte dei doni spirituali per desideri umani, e forse perché non si vuole operare con amore, a volte non è male chiedere a tutti i costi doni che lo Spirito non vuole esprimere in noi, e forse perché non lo si fa con amore. Il vero problema in una chiesa alla fine è sempre uno, la mancanza d'amore, non l'espressione dei doni. Lo scopo dell'esercizio dei doni è dunque il produrre nella comunità qualcosa di utile. Prendiamo ad esempio il dono di parlare in lingue, un dono che ha creato grossi problemi al tempo degli apostoli e che ha fatto scorrere più inchiostro sulla carta di quanta acqua il fiume Po riversi nell'Adriatico, e questo perché è ritenuto da molti il dono più degno di stima, quello che consente l'accesso agli altri doni spirituali, oltre che la prova di spiritualità o un segno speciale del favore di Dio. Una cosa è certa, anche se in nessuna parte del nuovo patto esista un'ingiunzione a ricercarlo, domandarlo o possederlo, è pur vero che il dono di parlare in una lingua rimanga l'espressione della persona dello Spirito, e malgrado gli abusi di cui è stato oggetto nella Chiesa di Corinto, l'Apostolo Paolo non si sogna affatto di impedirne l'uso. Però occorre anche riconoscere che non tutti i membri del corpo di Cristo ne fruiscono, 1 Cor 12.30, e che il dono di parlare in lingue è inferiore a quello di profezia, 14.5, perché è meno utile alla Chiesa, 14.2, 4, 6, 12. Non solo. Anche se parlare in lingue rimane una manifestazione dello Spirito di Dio per il principio che l'espressione di ogni dono deve essere per l'utile comune, è necessario rinunciare all'espressione di questo carisma in pubblico, in assenza di chi interpreti, perché chi ascolta udrebbe delle parole per lui prive di significato. Ora, se chi ascolta parlare in lingue non comprende nulla e di conseguenza non è edificato, va da sé che l'esercizio del dono di parlare in lingue rimane inutile. Dunque, il parlare in lingue non è un criterio di spiritualità. Lo dimostra il fatto che l'Apostolo Paolo qualifica come carnali i corinzi che ne erano in possesso. Perciò l'atto di spiritualità di chi possiede il dono di parlare in lingue, al contrario, sta proprio nell'evitare di esercitarlo qualora non rechi qualche cosa di utile come una rivelazione o non edifichi. Inoltre, per un esame obiettivo, occorre riconoscere che il parlare in lingue non è un fenomeno specificatamente cristiano, perché era diffuso in quasi tutte le religioni antiche ancora prima di essere praticato dai cristiani. Lo si trovava nei tempi pagani dei misteri di Eleusi e di Delfo, e oggi viene praticato fra gli Zulu da tempi immemorabili, lo praticano gli stregoni del Paraguay, gli esquimesi della baia di Hudson, mentre i sacerdoti buddisti e shintoisti, i sufi musulmani, parlano in lingue straniere estatiche. Questa realtà dovrebbe portare ogni credente ad avere un cauto rispetto nei confronti del parlare in lingue, ma soprattutto a cingersi di tanta volontà per recare qualcosa di utile alla Chiesa, perché senza quell'amore che procede da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta, qualsiasi dono non solo è reso vano, ma è dannoso. Leggiamo la lettera agli Efesini al capitolo 4. Cristo ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo, affinché non siamo più bambini, sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per la loro astuzia. Mediante gli inganni dell'errore, ma dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo. DF 4.1.1.15. In questo brano l'Apostolo Paolo esamina altre ragioni per le quali la persona dello Spirito manifesta le sue caratteristiche divine, cioè i doni nei credenti. La prima di queste è che Dio in Cristo manifesta i doni per mezzo dello Spirito, per il perfezionamento dei santi. Di fronte a questa verità il credente non può che inginocchiarsi e adorare Dio, perché non solo lo ha salvato dalla perdizione eterna, ma ogni giorno si cura di lui, mediante i doni esercitati da altri credenti a suo favore. Così, se ho bisogno di una parola di conoscenza, un fratello con questo dono mi comunicherà ciò che mi necessita, mentre se ho bisogno di una consolazione o riprensione, la Chiesa supplisce a questa mia necessità. Questo metodo di Dio, i doni della persona dello Spirito Santo al servizio della Chiesa, mi dice che l'importante non è sapere tutto o essere sempre all'altezza della situazione, ma che la Chiesa sia condotta dallo Spirito, quello Santo, che io partecipi alla vita di Chiesa, e il resto verrà da sé. Un'altra verità, in merito all'imperfezione dei credenti, è che tutti sono dei brutti anatroccoli, in attesa di diventare dei cigni. Perciò, come è stato pazientemente amato e curato da Dio, il credente deve armarsi di quella pazienza che scaturisce dall'amore per attendere che Dio compia l'opera di perfezionamento tanto in lui quanto nel prossimo per arrivare a uno stato spirituale chiaro e ordinato. Proprio per questo la comunione fraterna diventa uno dei banchi di prova più difficili. Lo dimostra il fatto che non tutti terminano la loro esistenza mettendo i propri doni al servizio nella Chiesa. Se fosse solo questo l'errore di certi credenti, il danno sarebbe contenibile perché Dio sa suscitare doni ovunque. Ma chi non mette i suoi doni al servizio della Chiesa generalmente cade nel giudizio di condanna che avvelena ogni rapporto. Così, anziché costruire e essere utile per il perfezionamento dei santi, il credente diventa un tarlo, che divora tutto ciò che è buono e giusto. Un'altra ragione per cui Dio distribuisce i doni ai credenti è per l'opera del ministero, cioè che possano diffondere le verità evangeliche e svolgere con successo le varie mansioni adatte al loro compito. Questo ci dice che ogni credente è in grado di adempiere a qualsiasi chiamata da parte di Dio, perché Cristo equipaggia adeguatamente ogni suo operaio. Perciò sostenere di non essere all'altezza di un compito affidato da Dio equivale a ritenere Dio un irresponsabile. Ho ancora presente, dopo tanti anni, come io stesso ho dovuto arrendermi alla volontà di Dio accettando che Lui fosse in grado di portare avanti con successo la mia chiamata. Poco dopo convertito a Cristo, la Chiesa mi incoraggiava a predicare la parola di Dio. Così, prima in una stalla con poche persone, poi, davanti a tutta la Chiesa, annunciavo le rivelazioni che Dio mi dava. Ma avevo un problema non da poco, soprattutto per chi deve parlare in pubblico, ero balbuziente. Se fossi stato zoppo o cieco da un occhio poco, sarebbe importato, ma dovendomi spiegare davanti al pubblico con una fastidiosa balbuzia che spesso mi impediva di esprimermi chiaramente, ritenevo impossibile assolvere alla mia chiamata. Così, un giorno in profonda prostrazione, dissi chiaramente a Dio: va bene, io predicherò, ma la colpa sarà tua se le cose vanno male. Avendo dunque abbandonato ogni senso di responsabilità, assolvevo il mio compito e Dio, come a volte fa, mi incoraggiò facendomi la promessa che la mia balbuzia non sarebbe più stata manifestata. E così fu. Perciò non importa quale come sia la chiamata, perché in fondo lo scopo di Dio è vedere quanto siamo pronti ad ubbidirgli. Infatti, quando provò Abramo chiedendogli la vita del figlio, l'Eterno rifiutò il sacrificio di Isacco solo nel momento in cui il patriarca aveva già in cuor suo determinato di uccidere il ragazzo, soltanto allora l'Eterno Dio ordinò ad Abramo di non offrire più Isacco. Invece possiamo vedere il classico esempio di chi a stento ubbidisce ad una chiamata, in Mosè, il quale per varie volte trovò delle scuse per non compiere la sua missione. Infatti, prima non si riteneva qualificato, meno come se Dio non sapesse quello che fa, meno poi non sapeva cosa dire, riteneva di non avere autorità, aveva dei limiti nel parlare, non sapeva adattarsi, non vedeva dei risultati. E infine non voleva ubbidire alla sua chiamata perché il popolo non lo avrebbe ascoltato. Forse, molti di coloro che hanno dei doni si identificano nelle ragioni addotte da Mosè per non esercitarli. Se teniamo presente però che i doni sono dati proprio perché possiamo svolgere con profitto il nostro compito e produrre del benessere, vale dunque la pena di iniziare con fede, per poi vedere la realizzazione dell'opera di Dio nell'espressione del nostro dono. Un'altra ragione dei doni dati da Dio ai suoi figli è l'edificazione del corpo. Se tutti coloro che hanno posto una fede salvifica in Cristo fossero motivati del continuo da questo obiettivo, non vi sarebbero quelle lacerazioni o divisioni così frequenti nelle chiese cristiane. Edificare nel senso spirituale significa rendere più forte qualcuno, renderlo capace di vivere vittorioso la sua fede. Una cosa non facile da compiersi, sia perché occorre tanta maturità, sia perché non tutti abbiamo afferrato la modalità più adeguata al riguardo. Perciò, alcune opportune domande possono aiutare a comprendere cosa significa edificare il prossimo. Possiamo chiederci: in quale modo l'esercizio del dono ha cambiato in positivo la mia attitudine nei confronti di Dio, di Gesù Cristo, della Scrittura, di me stesso, degli altri credenti, del mondo e del peccato? L'esercizio privato o pubblico? I doni della persona dello Spirito Santo al servizio della Chiesa di questo dono onora Gesù Cristo e la Chiesa? Prende più umile chi lo possiede, stimola a servire la Chiesa? Oppure l'esercizio di questo dono divide la Chiesa e spinge ad inorgoglirmi? Forse si è data poca importanza alle parole di Giacomo, il fratellastro di Gesù. Da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? G.C. 4.1. Ma non tutti sono convinti che guerre e contese provengano sempre da motivi carnali perché, credendo di agire per amore della verità, si è pure pronti a sostenere qualsiasi guerra e, in fondo, questa posizione ha del vero. Così, per aiutare coloro che sono sinceri, è possibile vedere la cosa da un'altra angolazione, e cioè considerare il dono dal lato della sapienza. Poiché ogni dono, per essere espresso in modo da edificare, deve per forza di cose essere accompagnato dalla sapienza, Giacomo pone questa riflessione. Chi è savio e intelligente fra voi, mostri con la buona condotta le sue opere fatte con mansuetudine di sapienza. Ma se nel vostro cuore avete amara gelosia e spirito di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. Questa non è la sapienza che discende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Dove infatti ci è invidia e contesa, lì ci è turbamento ed ogni sorta di opere malvagie. Ma la sapienza che viene dall'alto prima di tutto è pura, poi pacifica, mite, docile, piena di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia. Ora il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano alla pace. D.C. 3.1-3.18. Se si avesse il dono di profezia, delle lingue, se si conoscesse tutti i misteri e tutta la scienza, se si avesse una fede da trasportare i monti, tuttavia non si avesse amore, non si sarebbe nulla. Allora dobbiamo anche credere che esercitando un qualsiasi dono senza edificare il corpo di Cristo o produrre del benessere, non si è nulla e a niente si giova. Inoltre, Dio dona dei doni ai suoi figli anche per giungere all'unità della fede. Questo motivo è molto importante perché ciò che travaglia e che ha travagliato la Chiesa nei 2000 anni trascorsi sono state proprio le divisioni causate dai principi teologici. Questi hanno creato gravi lacerazioni alla tunica di Cristo, le quali hanno portato nell'ambiente protestante l'insorgere di luterani, riformati, anglicani, metodisti, battisti, valdesi, avventisti, pentecostali, delle chiese di Cristo, delle chiese dei fratelli e di tante altre denominazioni. L'ironia della sorte è che queste divisioni non sono sorte per lo più per motivi malvagi, ma per amore della verità, solo che quasi nessuno ha compreso di aver usato la verità o come una spada per attaccare o come uno scudo per difendersi, ora per vendicarsi, per minacciare o per sistemare qualcuno. Troppo spesso nelle dispute teologiche si usa la verità per dimostrare di aver ragione e il torto altrui, anziché servirsi della verità come strumento di riconciliazione. Abbiamo già considerato che l'amore meno tra le tante cose meno è paziente. Non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, ma si rallegra del trionfo della verità. Con questi obiettivi molto difficilmente si divide il corpo di Cristo, ma purtroppo i normali credenti imparano fin troppo presto ad usare la verità come strumento di giudizio, trasformandosi così non in persone che giudicano ciò che è bene distinguendolo da ciò che è male, ma che impiegano il bene per condannare l'altro. Non a torto, quindi, il mondo giudica la Chiesa come una comunità di criticoni e ipocriti. Perciò uno dei principali scopi nell'esercizio del dono deve essere l'unire la Chiesa il più possibile, anche a costo di sorvolare su questioni di fede marginali. L'Apostolo Paolo, riferendosi alla comunione fraterna, scrive nella lettera ai Romani: «Ora accogliete chi è debole nella fede, ma non per giudicare le sue opinioni». TRM 14.1. Dunque, la fede cristiana non è composta solo da dottrine basilari come la Trinità, la divinità di Cristo, la salvezza per grazia senza nessuna opera meritoria, ma anche da opinioni o, come anche diversamente tradotto, da scrupoli. Questo dovrebbe far riflettere quando si impugna una verità o si esercita un dono. Vi sono persone che parlano in lingue e ritengono che tutti debbano parlare in lingue anche per conoscere che si è battezzati dalla persona dello Spirito Santo, ma non sta forse scritto che non tutti parlano in lingue? Non è forse un'opinione ritenere che tutti debbano parlare in lingue? Non è forse un'opinione che la donna non può pregare in assemblea quando sta scritto che essa può pregare purché sia velata? E se qualcuno la pensa diversamente, è una valida ragione per dividere la Chiesa? I doni non sono dati per giungere all'unità della fede? Dobbiamo convincerci che quando la verità giudica e conduce alla divisione, è in realtà una menzogna. Così in realtà è meglio non esercitare il dono che porta a i doni della persona dello Spirito Santo al servizio della Chiesa, eventuali divisioni, perché vanitoso e negativo. Il dono, quando è veramente tale, deve produrre sempre del benessere. Una quinta ragione per la quale Dio dona dei doni ai suoi figli è per conoscere Gesù Cristo. Una motivazione del genere oggi non ha quasi nessun significato, perché in una società nella quale Gesù Cristo viene predicato dai pulpiti religiosi, la sua nascita, la sua resurrezione viene ricordata ogni anno, con feste particolari, e la sua persona è oggetto di dibattito in televisione, molto difficilmente si può sostenere di non conoscerlo. Perciò, se vi è difficoltà nel far combaciare le due cose, è perché meno, come spesso succede, meno non abbiamo compreso il linguaggio biblico del termine conoscere, il quale, come tutti i termini, ha più significati. Noi ne possiamo prendere in esame tre. Il primo e più applicato aspetto è che il termine conoscere si riferisca all'osservazione, alla conoscenza e al riconoscimento degli oggetti o delle persone mediante gli organi dei sensi. Infatti, il gesto del bambino nel mettersi gli oggetti in bocca non è altro che un modo per acquisire una percezione della cosa, della quale ha solo una percezione visiva o uditiva, per poterne raccogliere e ordinare i dati nella propria coscienza. Non ci re che dire. Dio ha creato l'essere umano in modo meraviglioso e per questo la parola di Dio definisce l'uomo inteso come maschio e femmina meno il capolavoro divino. Poi vi è la conoscenza di Dio tramite Gesù Cristo, che ha la capacità di produrre un totale cambiamento di pensiero e di modi di vivere. Questo è messo molto bene in evidenza dall'Apostolo Paolo nella sua seconda lettera ai Corinzi. Poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che, se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, e che egli è morto per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più d'ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Perciò d'ora in avanti noi non conosciamo nessuno secondo la carne. E anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. 2 Cor 5.1.4.17. Questo meraviglioso brano di Paolo vuol dire che tutti inizialmente conosciamo Cristo solo a livello mentale, cioè quella percezione di una realtà che non determina necessariamente delle modifiche nella nostra vita, ma in seguito occorre realizzare un'esperienza personale con Cristo come personale salvatore e padrone, capace di fornire la base per un conoscere e un agire ulteriori. Ecco perché Dio comanda all'uomo di conoscerlo. Egli vuole diventare una realtà che condiziona la vita. Il terzo aspetto del verbo conoscere è riscontrabile in un'ingiunzione di Pietro. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore Salvatore nostro Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. 2 Pt 3.1.8 Pietro sta scrivendo a persone che hanno già maturato un'esperienza con Gesù e di conseguenza il loro modo di pensare e di agire è stato modificato, ma questo segna solo l'inizio per una maggiore conoscenza di Gesù. E dunque questo è lo scopo a cui deve mirare l'esercizio dei doni, perché Gesù Cristo venga conosciuto da un livello puramente intellettuale e staccato ad un livello personale e reale per poi proseguire verso una maggiore esperienza fatta di eventi giornalieri. Questo processo si chiama santificazione cioè quel cammino che di giorno in giorno si adegua alla volontà di Dio sempre più composto di convinzione. Infatti non a caso l'Apostolo Paolo, nella lettera indirizzata ai credenti di Roma, dopo aver scritto della necessità di riconoscersi peccatori perduti, dopo aver presentato la salvezza mediante un solo atto di fede in Gesù Cristo, dopo aver dichiarato la giustificazione per fede per tutti gli uomini, dopo averli incoraggiati ad una vita di santificazione per arrivare ad una piena glorificazione in Cristo, inizia un discorso relativo alla parte pratica dicendo: «Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettabile, e non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio». Il Rm 12.1. Il credente che ha posto fede in Cristo già conosce la volontà di Dio, espressa nella sua parola. Volontà che può essere sintetizzata nei 10 comandamenti. Ma in seguito egli deve, con l'esperienza nella sua vita, conoscere quale sia il volere di Dio. È giunto il momento di comprarmi una casa oppure no? Devo cambiare lavoro oppure no? Devo sposarmi con i doni della persona dello Spirito Santo al servizio della Chiesa, Marta o Lucia? A queste domande non vi sono certamente delle risposte precise nella parola di Dio, e solo con una maggiore conoscenza di Cristo si può avere una risposta. Ma che c'entra Cristo con la casa, con il matrimonio e il lavoro? Qualcuno chiederebbe. Ebbene, se Cristo è veramente la sapienza del credente, allora non vi è settore dell'esistenza nel quale egli non abbia qualcosa da dire. E con la sapienza di Cristo che posso essere convinto, cioè quel processo conclusivo della mia valutazione delle mie scelte, e a questo posso arrivare anche tramite l'esercizio dei doni al servizio della Chiesa. Infine, una sesta ragione per la quale Dio elargisce dei doni al servizio della Chiesa è per giungere all'altezza della statura perfetta di Cristo, cioè per essere uomini completi. Per comprendere quanto sia importante questo obiettivo, occorre tenere presente che ogni anima che diventa figlia di Dio per fede in Cristo sperimenta una nuova nascita. E quando si parla di nuova nascita ci si riferisce all'esperienza mediante la quale si entra in un mondo totalmente sconosciuto. Infatti, mediante la nuova nascita si entra nel regno di Dio, un regno nel quale le prospettive della vita sono totalmente rovesciate rispetto a quella umana. E esattamente la differenza che passa tra ciò che vediamo noi e quello che vede un pipistrello appeso a testa in giù in una grotta. Proprio perché il mondo del regno di Dio è totalmente estraneo al nostro modo di pensare, è necessario che tutti i credenti esprimano i loro doni e li mettano al servizio della Chiesa, in modo che se manco di sapienza, chi ha il dono dell'insegnamento mi è di aiuto. Se chi è da evangelizzare, l'evangelista sarà opportuno. Se qualcuno è ammalato, chi ha il dono di guarigione è il benvenuto. Se ci sono dei poveri, chi ha il dono di liberalità può intervenire. In questo modo la Chiesa si esprime in modo maturo e non manca di alcun dono, e il credente viene fortificato. Oltre questo aspetto generale, mediante l'esercizio dei doni al servizio della Chiesa da parte dei figli di Dio, il credente acquisisce una più ampia conoscenza della volontà di Cristo, una conoscenza più equilibrata condita da quell'amore che procede da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta. Infatti, la caratteristica dei credenti all'inizio della vita cristiana è vedere le verità tutte da una parte, senza rendersi conto di comportarsi in modo settario e senza amore, cosa che Paolo si è preoccupato più volte di sottolineare. Infatti, qualsiasi studio in merito all'esercizio dei doni dovrebbe essere accompagnato sempre da un'esortazione relativa alla necessità di esercitarli con amore, perché, e non sarà mai troppo sottolinearlo, come disse Paolo, quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli ma non ho amore, divento un bronzo risonante o uno squillante cembalo. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non ho amore, non sono nulla. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri ed essi il mio corpo per essere arso ma non ho amore, tutto questo niente mi giova. 1 Co. 13:1-3. Non sono solo belle parole ma verità che possono rivoluzionare una vita? La Chiesa e il mondo. Sta a noi scegliere l'amore sopra ogni altra cosa. Anche ai doni. 6. Come sono distribuiti questi doni? La parola di Dio al riguardo non lascia dubbi, così ha scritto l'Apostolo Paolo ai Corinzi. Ora, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo ai doni spirituali. Ora ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. A uno infatti è data, per mezzo dello Spirito, parola di sapienza. A un altro, secondo il medesimo Spirito, parola di conoscenza. A un altro fede. Dal medesimo Spirito a un altro doni di guarigioni per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potere di compiere potenti operazioni, a un altro profezia, a un altro discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Or tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, che distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come vuole. 1 Co. 12:1-11. La prima e grande verità che un credente deve accettare è che il Dio Trino è sovrano. E come tale, egli decide del nostro colore e sesso, della nostra nazionalità, della nostra razza, del nostro carattere e di tante altre cose. Essendo sovrano, lo Spirito Santo decide pure nell'ambito spirituale dove, oltre a decidere della chiamata ad un servizio, decide pure quali doni manifestare. Così, un credente, prima ancora di desiderare dei doni, deve prima di tutto aspirare a lasciare a Dio il compito di decidere quale ruolo assumere nella Chiesa, anche perché la Chiesa come edificio è i doni della persona dello Spirito Santo al servizio della Chiesa, costruita solo se ogni operaio svolge il suo lavoro. Se un muratore vuole svolgere il ruolo del falegname e inizia a mettere su delle finestre, non solo non adempie alla propria mansione, ma non riesce a svolgere neppure quella altrui. Così un credente che vuole a tutti i costi predicare l'Evangelo come evangelista o insegnare le dottrine senza però averne le attitudini, non solo impoverisce la Chiesa alla quale appartiene, ma lui stesso non cresce spiritualmente. Perciò, prima di cercare il proprio dono, un credente dovrebbe imparare a memoria il Salmo 131 e recitarlo con uno spirito di preghiera. O Eterno, il mio cuore non è orgoglioso e i miei occhi non sono alteri e non aspiro a cose troppo grandi e troppo alte per me. Ho veramente calmato e acquietato la mia anima. Come un bambino svezzato sul seno di sua madre, la mia anima dentro di me è come un bambino svezzato. Chi crede al giudizio emesso in generale dalla parola di Dio relativamente all'uomo, crede anche che il proprio cuore sia ingannevole più di ogni altra cosa, e perciò potrà, sì, desiderare dei doni, ma accetterà soprattutto da parte di Dio quelli ricevuti. L'importante non è esprimere grandi doni come quello di guarigione, ma onorare Dio, santificando il suo nome e facendo la sua volontà. Del resto, questa è la prima preghiera insegnata da Gesù nel Padre nostro. Dunque, Dio mediante un medesimo Spirito distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come vuole. Ma non dobbiamo pensare che lo faccia secondo i suoi capricci o una volontà dispotica. Nella parabola raccontata da Gesù dell'uomo che parte per un lungo viaggio e distribuisce i suoi beni ai suoi servi, vediamo come Dio abbia elargito dei doni ai suoi figli. Così troviamo scritto nel Vangelo di Matteo: il regno dei cieli è simile a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1. A ciascuno secondo la sua capacità, e subito partì. Matt. 25:1-4:15. Un dono ricevuto da Dio non è un peso da portare come condanna, ma, pur essendo sempre un peso, è comunque proporzionato alle nostre capacità. Infatti 5 kg possono essere un peso enorme per un bambino, mentre non sono faticosi da portare per un adulto normale e sano. Così, chi pensa di avere un dono ma lo esercita tra momenti di depressione e crisi, forse è meglio che riveda le sue convinzioni. Il fatto che Dio distribuisca i suoi doni secondo la capacità delle persone significa che il piano di Dio prevede un incarico individuale. Quindi, anche se non abbiamo gli stessi doni e la stessa chiamata, abbiamo però tutti la stessa responsabilità. L'incarico che Dio ci ha dato è talmente importante da averlo stabilito prima della fondazione del mondo, come leggiamo nella lettera agli Efesini. Voi, infatti, siete stati salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi, infatti, siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato, perché le compiamo. Efe 2.8.10. La scrittura specifica che ognuno ha ricevuto il suo compito, e non che a ciascuno sia attribuito un compito qualsiasi o una funzione, ma la propria mansione, intendendo che la chiamata a fare una certa cosa è personale. Perciò ciascun credente in Cristo ha un compito assegnato da Dio solo a lui, fin dal principio, mediante il quale potrà glorificare Dio in un modo unico nell'universo. Dio preferisce che io svolga il mio compito, per quanto piccolo possa essere, piuttosto che un grande lavoro a me non assegnato. Per questo dobbiamo cercare, con tutto l'amore possibile, l'armonia e l'edificazione della Chiesa, anziché la possibile gloria proveniente dall'esercizio di un certo dono. L'occhio che non vuole fare la sua funzione nella Chiesa alla quale appartiene non sarà utile a nient'altro. Non può fare il piede o la mano. A nulla serve diventare vagabondi ecclesiastici, cioè gente che vaga da una comunità all'altra alla ricerca di un ambiente che accetti quello che vogliamo essere. Non solo Dio distribuisce i doni per il servizio nella Chiesa secondo le capacità di ognuno, ma anche secondo il proprio compito. E, scritto in modo evidente nell'Evangelo di Marco, state attenti. Vegliate e pregate, perché non sapete quando sarà quel momento. È come se un uomo, andando in viaggio, lasciasse la propria casa, dandone l'autorità ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e al portinaio ordinasse di vegliare. Vegliate dunque, perché non sapete quando il padrone di casa verrà, se di sera, a mezzanotte, al cantar del gallo o al mattino, perché, venendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Ora, ciò che dico a voi, lo dico a tutti. Vegliate! Marco 13.33-37. Ancora una volta i doni sono visti nell'ottica del ritorno di Cristo. È vero che la parabola sì. I doni della persona dello Spirito Santo al servizio della Chiesa riferisce a dei talenti, e che essi rappresentano le capacità naturali che tutti abbiamo ricevuto fin dalla nascita. Com'è vero che la parabola nella sua essenza vuole significare che Dio tratta gli uomini secondo la loro fedeltà o infedeltà in ciò che Dio può legittimamente aspettarsi da loro. Ma è altresì vero che se Dio si aspetta impegno e fedeltà nelle cose minime, maggiormente ricercherà molto di più da chi ha ricevuto dei doni dallo Spirito Santo. Il servizio al quale Dio mi chiama è adatto alla mia natura. Al giovane chiederà energia, forza, al vecchio saggezza. La dimensione del compito non è fissata. Può essere un lavoro complesso o semplice, umile o di gloria, ma mi sarà chiesto come lo avrò svolto. Perciò, piuttosto di criticare chi non svolge il proprio compito, la saggezza del credente sarà nell'esaminare se svolge il suo compito e se con fedeltà. L'Apostolo Paolo, nel meraviglioso capitolo 14 della lettera ai Romani, dove tratta il rapporto con il fratello in fede di opinioni diverse, pone alcune domande fornendo la relativa risposta. Ora tu, perché giudichi il tuo fratello? O perché disprezzi il tuo fratello? Poiché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Sta infatti scritto, come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Così dunque ognuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Perciò non giudichiamo più gli uni gli altri, ma piuttosto giudicate questo, di non porre in toppo scandalo al fratello. RM 14.1013. È vero che Paolo in questo capitolo stava parlando delle opinioni dei credenti e non dei doni, ma alla base sta sempre il medesimo principio d'amore che deve caratterizzare il credente. come credente nato di nuovo, ho ricevuto un compito da parte di Dio da mettere al servizio della Chiesa con la massima espressione d'amore, e se l'amore non cerca il proprio interesse e non si vanta, allora è già molto che guardi al mio compito e lo svolga con la massima fedeltà. Questo sarà un esempio per la Chiesa la quale sarà edificata. E così avrò ottenuto uno degli scopi principali dell'esercizio dei doni, produrre del benessere al prossimo. E avrò fatto centro. 7. Quanto dura un dono? Domandandosi non per curiosità ma per poter apprezzare ciò che si riceve quanto duri un dono, si è indotti a una maggiore consacrazione all'opera di Dio, come discepoli di Cristo, allo scopo di glorificare il Padre di Gesù Cristo. Infatti Gesù disse ai suoi discepoli: «In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete miei discepoli». GV 15.8 Lo studio sui doni ricevuti da Dio, espressi mediante la persona dello Spirito Santo, è da ritenersi non solo un mezzo per accrescere la nostra conoscenza, ma un motivo per essere consacrati alla causa di Cristo, senza distrazione, e a mantenere l'obiettivo di voler far del bene a coloro che appartengono alla famiglia di Dio. Secondo quanto scritto nella parola di Dio, i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. RM 11.29 Perciò si può ritenere che i doni ricevuti mediante lo Spirito Santo siano permanenti. Poiché un dono non si perde, occorre però guardarsi dal pericolo di usarlo senza una certa perseveranza, al fine di non smarrirne la potenzialità e la manifestazione. Gesù lo espresse nella parabola di quell'uomo nobile che, partendo per un viaggio, dona ai suoi servi del denaro perché lo facessero fruttare. Uno di questi tuttavia non fece il suo dovere e così, al ritorno, l'uomo nobile gli tolse il denaro donato per darlo al servo che aveva il migliore investimento, provocando in tal modo il malcontento degli altri servi che ritenevano ingiusta tale azione. Gesù concluse la narrazione in questi termini: «A chiunque ha, sarà dato e sovrabbonderà, ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha». MT 25.29 Questa parabola vuole far comprendere che tutto ciò che si riceve da Dio deve essere fatto fruttare, cioè deve essere usato in modo positivo sia per se stessi, sia per il prossimo, come per Dio, altrimenti senza l'esercizio il dono si atrofizza. Quanto più allora i doni spirituali manifestati dalla persona dello Spirito Santo devono essere esercitati per l'utilità della Chiesa. E importante tenere presente l'aggettivo utile perché, come disse l'Apostolo Paolo, ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile, cioè non serve al bisogno. Perciò importante non è solo l'espressione del dono, ma quanto esso possa servire ai bisogni altrui e sia coordinato assieme agli altri doni e interdipendente, come gli organi del corpo umano. Purtroppo spesso l'armonia dell'espressione dei doni è turbata dai complessi di inferiorità di chi pretende di non averne nessuno, solo perché non ha il dono che desidera. Problema, questo, superabile solo con uno spirito d'amore. I doni della persona dello Spirito Santo al servizio della Chiesa, che non fa nulla di sconveniente e non cerca il proprio vantaggio o interesse, ma una unità di obiettivi con la Chiesa per il bene di tutti. La parola di Dio riporta un episodio che ha da dirci qualcosa in merito ai doni. Un profeta di Giuda fu mandato dall'Eterno a rimproverare il re di Israele, Geroboamo, ma con l'ingiunzione di non mangiare in casa del re e di non tornare per la strada percorsa all'andata. 1 Re 13.9 Compiuta la missione, il profeta si incamminò per la strada del ritorno. Un vecchio profeta però, sentito ciò che il suo collega aveva detto, e fattolo rincorse, e lo trovò seduto sotto una quercia. Il vecchio, mentendo, gli disse che un angelo gli aveva parlato, dichiarando di riferire al collega di tornare indietro con lui e mangiare a casa sua. Il profeta di Giuda obbedì, e più tardi fu punito da Dio, morendo ucciso da un leone. Quale riferimento ha questa storia con i doni e soprattutto con la loro durata? Il profeta di Giuda aveva una missione, come del resto tutti coloro che hanno dei doni o carismi, ma compiutala. L'uomo fece l'errore di fermarsi all'ombra di una quercia piuttosto che sbrigarsi a tornare a casa, essendogli precluso il mangiare e il bere in quel luogo. La sosta del profeta, seduto sotto una quercia, può essere paragonata alla rilassatezza nell'esercizio dei doni, mentre la morte del profeta è paragonabile alla conseguente perdita della loro potenzialità e manifestazione. È molto importante vedere la manifestazione dei doni della persona dello Spirito anche sotto questo aspetto, perché una chiamata, un'elezione, non garantiscono la qualità della vita alla quale si è chiamati. Un esempio abbastanza evidente e riscontrabile in Mosè quando fu chiamato dall'Eterno ad incontrare il Faraone per ordinargli di lasciare andare il popolo di Israele. Dopo un lungo battibecco con l'Eterno, Mosè partì per la sua missione, ma, nel libro dell'Esodo, leggiamo che durante il viaggio l'Eterno andò incontro a Mosè per farlo morire, a causa dell'incirconcisione del figlio. Es 4.2426. Senza dubbio alcuno Mosè era un uomo gradito a Dio. Come in dubbio era pure la sua chiamata, eppure se la moglie di Mosè non avesse circonciso il figlio, per quanto fosse stato scelto da Dio, sarebbe morto. Poiché la parola di Dio afferma che tutto ciò che è stato scritto nell'Antico Patto è per il nostro ammaestramento, RM 15.4, anche gli episodi del profeta di Giuda e di Mosè ci insegnano a non inorgoglirci del dono ricevuto per sempre, perché non vi è dono così grande da impedire a Dio di toglierne la manifestazione. Ciò che Dio richiede non è avere grandi uomini che facciano grandi cose, ma avere degli amministratori che siano trovati fedeli, anche perché la fedeltà è il frutto dell'amore. 1 Co 4.2 E più un dono o carisma è espresso mediante l'amore, più produce benessere, è utile, necessario e durevole. 8. Cosa fare per non perdere il proprio dono? Si è detto che non si perdono i doni ricevuti dalla persona dello Spirito Santo, ma è possibile smarrirne la potenzialità e manifestazione. Perciò è evidente che occorre fare qualcosa. In merito, l'Apostolo Paolo ha scritto quanto segue a Timoteo, suo figlio spirituale: applicati alla lettura, all'esortazione e all'insegnamento, finché io venga. Non trascurare il dono che è in te, che ti è stato dato per profezia, con l'imposizione delle mani da parte del collegio degli anziani. Adoperati per queste cose e dedicati ad esse interamente, affinché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Abbi cura di te stesso e dell'insegnamento. Persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. Un Terametro 4.1316. Per non perdere la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune, è per prima cosa indispensabile non trascurare il dono ricevuto. Ho l'impressione che la trascuratezza nel campo della fede sia una delle mancanze più trascurate. Spesso si tende con tutto il proprio essere a raggiungere degli obiettivi, mentre si dà poco valore a ciò che si trascura. E così, senza rendersene conto, si arriva ad essere impoveriti. Eppure la trascuratezza ha mietuto molte vittime più di tante altre mancanze. Molti anni fa esplose un aereo in volo e, dopo molte indagini e ricerche, scoprirono che uno sportello era stato chiuso male, mentre due treni si sono scontrati solo, perché il macchinista non aveva osservato con attenzione il semaforo rosso. Nella parola di Dio leggiamo che alcuni uomini hanno trascurato la naturale conoscenza di Dio innata in loro, e alla fine Dio li ha abbandonati perché facessero quello che volevano, mentre altri hanno trascurato di considerare il messaggio di Dio e alla fine si sono ritrovati perduti. Dunque, una minima cosa tralasciata può avere gli stessi effetti letali di un grosso errore. Così un dono trascurato può avere i doni della persona dello Spirito Santo al servizio della Chiesa stessi effetti di un dono non ricevuto, cioè non è più possibile esercitarlo. Cosa fare dunque, non solo per non perdere il proprio dono, ma anche per non trascurarlo? L'Apostolo Paolo ha elencato alcune cose, tra le quali darsi interamente alla lettura della parola di Dio e all'insegnamento. Dopo 2000 anni, l'esortazione e l'ordine di Dio di leggere e studiare le sante scritture sembra superfluo. Eppure, ancora oggi sono pochi i credenti che leggono e studiano regolarmente la parola di Dio. Sono ancora scosso dalla testimonianza di una credente che disse di leggere ogni giorno non più di 10 versetti e non capiva coloro che leggevano delle pagine intere. Eppure, era una grande lettrice e instancabile traduttrice di libri. Uno dei doni che più di tutti tende a perdersi con il mancato esercizio è quello dell'insegnamento. Per insegnamento non si intende il dire di tanto in tanto parole buone o il presentare qualche dottrina, ma quella capacità di trasmettere cose difficili in modo facile, perché mentre complicare ciò che è semplice è possibile a tutti, rendere comprensibile quello che è difficile è il principale segno del buon insegnante. Purtroppo, il tema dell'insegnamento crea grande discordia in certi ambienti cristiani, perché per alcuni credenti la donna non può insegnare. Questo atteggiamento non è molto comprensibile, perché se la donna non può insegnare, occorre dire che non può ricevere il dono dell'insegnamento. Di fatto, però, nella maggior parte delle chiese i conduttori affidano alla donna l'insegnamento ai bambini, così come molte sorelle hanno l'incarico di insegnare ad altre donne. Dunque, in concreto, le donne insegnano. Perché allora alcuni credenti sono contrari all'affidare l'insegnamento alle donne? Forse il problema sta in ciò che si intende con il verbo insegnare. È vero che Paolo non permette alla donna di insegnare, un terametro 2.12, meno, e se crediamo che parli da parte di Dio questo è giusto, meno, ma se con tale termine si intende dettare dottrine allora la donna non è chiamata a questo compito. Però se con il termine insegnare si intende il compito di trasmettere sotto la responsabilità degli uomini un insegnamento da questi stabilito, allora la donna non solo può insegnare, ma deve farlo con il giusto atteggiamento di sottomissione. Infatti, quando alla donna è dato il compito di profetizzare, l'esercizio di questo dono intende un ministero di edificazione, di esortazione e di edificazione, ma mai di riprensione, perché essa implica una certa autorità, autorità che la donna non ha nei confronti dell'uomo. Così, ancora una volta vediamo che l'esercizio dei doni deve essere espresso secondo le regole di Dio e non a ruota libera, come se l'esercizio fosse sufficiente in sé. Anzi, anche se avessi il dono delle lingue, il dono di profezia, ma non avessi l'amore, cioè quell'atteggiamento che non si comporta in modo inopportuno, io non sarei nulla e farei solo del rumore inutile. Se i credenti nell'esprimere il loro dono tenessero presente l'assoluta supremazia dell'amore sull'esercizio del dono stesso, allora sottometterebbero ogni loro ambizione sbagliata all'utilità della Chiesa. Alla fine sarebbero gratificati per aver amato di quell'amore che ritiene i bisogni degli altri importanti quanto i suoi. 9. Come praticare il proprio dono? Rispondere all'interrogativo come praticare il proprio dono sembra di poca importanza, eppure non sono pochi i credenti giunti al termine della vita non esercitandolo più o commettendo grossi errori. Partire bene nella vita cristiana sembra una normale prassi perché la novità consiste nell'essere sottomessi completamente alla persona dello Spirito Santo, ma quando in seguito siamo chiamati a vivere con discernimento e autocontrollo, allora chi non è cresciuto nella conoscenza o si lascia prendere dagli impegni della vita e dalle ricchezze oppure non arriva a maturità. LC 8. Un eclatante esempio di come un dono possa essere usato male o addirittura possa essere negativo lo vediamo in un episodio della vita di Mosè. Mosè ricevette l'ordine dall'Eterno Dio di andare dal Faraone a liberare il popolo di Israele dalla schiavitù di Egitto e perché potesse convincere sia il Faraone sia il popolo, l'Eterno gli diede la facoltà di usare il bastone che aveva in mano per compiere miracoli e segni straordinari. Così leggiamo nella parola di Dio. E Mosè prese nella sua mano il bastone di Dio Es 4:20. Da questo momento in poi, il bastone di Mosè diventerà il bastone di Dio, due realtà divise ma inseparabili. Per 40 anni Mosè compirà prodigi davanti a tutto il popolo di Israele mediante il bastone e il rapporto tra il bastone e Mosè sarà talmente stretto da poter indurre un fanatico religioso a pensare che il bastone di Dio, i doni della persona dello Spirito Santo al servizio della Chiesa, avesse delle proprietà soprannaturali intrinseche. Ma non è così. Verso alla fine della sua vita, Mosè riceve l'ordine dall'Eterno di far scaturire l'acqua da una roccia solamente parlando. Ma Mosè, mosso da una certa incredulità, prende il bastone e percuote la roccia per due volte. L'acqua esce lo stesso dalla roccia, perché grande è la misericordia di Dio, ma per questo atto di incredulità Mosè non entrerà nella terra promessa. Dunque, il dono del bastone di Dio diventò per Mosè uno strumento di condanna. Perciò occorre ricordare che ogni dono ha due aspetti di una stessa verità. È uno strumento di benedizione, ma può trasformarsi anche in condanna. Quindi, il bastone che Dio ha dato a tutti noi, cioè i doni naturali e quelli espressi dalla persona dello Spirito Santo, sono strumenti eccellenti per onorare Dio, ma possono essere pure ragione della nostra condanna. Un predicatore può inorgoglirsi della sua versatilità, come uno scrittore del proprio talento. Vi è però un altro aspetto molto delicato relativo al modo di praticare il proprio dono, tanto delicato, che spesso non se ne parla. Primo, perché è già raro chi si comporta in questo modo. In secondo luogo, perché è molto difficile incoraggiare gli altri a fare di meno. Mi sto riferendo a coloro che esercitano il dono in modo sconsiderato senza tener conto della loro fragilità umana. Di questo aspetto facendo l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera. Ciascuno metta al servizio degli altri il dono che ha ricevuto, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia come se annunciasse gli oracoli di Dio. Chi fa un servizio, lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. 1 Pt 4.1011. Anche l'Apostolo Pietro ordina di mettere il proprio dono al servizio degli altri, senza usarlo per la propria gloria, perché sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, ma per glorificare Dio non è sufficiente averne l'obiettivo, bensì è necessario anche usare il dono con la forza che Dio fornisce. Su questo aspetto occorre fermarsi. Il più grande comandamento che Gesù abbia dato è di amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente e con tutta la forza. MR 12.30, niente di meno. Ma il termine tutto non significa arrivare al punto di non poter fare più niente, come se io usassi le gomme di una macchina fino a logorarle. Il suo significato intende indurmi a amare Dio al massimo delle mie capacità, senza però arrivare ad esaurirmi. Pietro ordina di servire Dio con la forza che si ha, né più né di meno. Perciò se un pastore di anime con il suo dono può svolgere 8 ore di continuo, riesce a visitare alla settimana una ventina di credenti e riesce a preparare 5 o 6 sermoni, non significa che tutti coloro che si sentono chiamati a condurre una chiesa non condizionati da un lavoro secolare debbano svolgere la stessa quantità di mole di lavoro. Tutti i credenti devono dare il massimo di se stessi per Gesù Cristo e la sua opera, ma altresì devono avere la saggezza di comprendere quando occorre fermarsi o rallentare, perché una volta esauriti non si è utili a nessuno, e tantomeno all'opera di Dio. Come praticare dunque il proprio dono? Occorre praticarlo per produrre del benessere e senza risparmiare nulla, ma altresì senza peccare di attivismo, anche perché Dio ha bisogno di uomini fedeli e sani e non di uomini fedeli esauriti. Se poi Dio vuole dare, nella sua sovranità, ad un suo servitore la malattia, ben venga, ma perché volere suo e non a causa di una trascuratezza del credente. 10. Cosa dobbiamo fare dopo aver esercitato il nostro dono? Come si è sottolineato più volte, un dono fa pensare automaticamente alla fedeltà. Non è possibile esercitare un dono per il bene della Chiesa se non è unito al frutto dello Spirito, che è fedeltà. Quando si parla di fedeltà, si tocca un campo immenso, di cui con una serie di 5 P È possibile abbracciare una buona area. Innanzitutto occorre leggere la parola di Dio, perché senza fede è impossibile piacere a Dio. Eb 11:6. E dato che la fede scaturisce dalla lettura della parola di Cristo, Ro 10:17, è assurdo voler piacere a Dio solo con l'esercizio del proprio dono. Inoltre occorre la preghiera, intesa come rapporto personale con Dio tramite Gesù Cristo, e come espressione pubblica. Nella preghiera non dovrebbe mai mancare l'appellarsi a Dio perché mandi degli operai nella sua messe. Una simile preghiera suscita in modo positivo l'esercizio del proprio dono. Poi occorre la più Nuovo Testamento warita, virtù necessaria, ma di pochi, perché qualsiasi dono espresso senza la disciplina di una corretta presenza spesso ne invalida l'autorità. Vi è necessità anche della i doni della persona dello Spirito Santo al servizio della Chiesa. Presenza, cioè la partecipazione alla vita di Chiesa, in modo che la comunità possa analizzare l'eventuale dono. E infine vi è la necessità di partecipare, cioè mettersi al servizio della Chiesa. Condividere anziché pretendere che la comunità sia al nostro servizio. Dato per scontato che un dono è efficace quando vi è la fedeltà, cosa occorre fare dunque dopo aver esercitato il proprio dono? Gesù lo ha indicato nella parabola relativa ai doveri del servo. Ora chi di voi, se ha un servo, all'arare o a pascolare il gregge gli dirà quando è tornato a casa dai campi, vieni subito a metterti a tavola? Non gli dirà piuttosto, preparami la cena, rimboccati le vesti e servimi. Affinché io abbia mangiato e bevuto, poi mangerai e berrai tu. Ringrazierà forse quel servo perché ha fatto le cose che gli erano state comandate. Così anche voi, quando avrete fatto tutte le cose che vi sono comandate, dite, siamo servi inutili, abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. DNLC 17:7-10. È necessario attribuire la medesima importanza data agli altri doni anche al comandamento di Gesù? Insito in questa parabola, se si vuole esercitare il proprio dono nel modo più appropriato. A questo scopo occorre partire dal presupposto dal quale è partito Gesù, cioè che tutti i credenti sono dei servi schiavi al servizio di un padrone. Senza questo presupposto, le parole di Gesù non sono per noi. Essere coscienti della propria condizione di servi significa accettare che Dio sia molto esigente nei nostri riguardi e che le richieste piovano una dopo l'altra, senza tener conto della nostra persona. Significa che, dopo aver fatto molto, non dobbiamo aspettarci alcun ringraziamento da parte sua né, tantomeno, dobbiamo incolpare di egoismo il nostro padrone. Inoltre, se siamo coscienti di essere dei servi, dopo aver fatto tutto il possibile non dobbiamo inorgoglirci per nulla, ma confessare meno, dopo aver fatto tutto quello che ci è ordinato, meno di essere dei servitori inutili perché abbiamo solamente fatto ciò che eravamo costretti a fare. Se questo fosse il pensiero dominante nelle nostre riflessioni, come quando lo Spirito Santo produce i suoi frutti in noi, non ci sarebbe nessun spirito di orgoglio o di rivalità nell'esercizio dei doni. L'apostolo, cioè colui che è stato inviato, sarebbe contento di chi ha il dono di profezia o di insegnamento, mentre chi parla in lingue non disprezzerebbe l'evangelista o chi ha il dono di assistenza. Ogni credente ha il suo ruolo per l'armonia e il completamento della Chiesa, perché lo Spirito Santo manifesta i suoi doni per il bene comune e non per creare disordini. Così, accettare i doni dell'altro significa che, se il mio è un dono di assistenza e mi trovo a dover parlare dell'Evangelo ad una persona, accetterò ciò che mi suggerisce chi ha il dono dell'evangelista. Mentre se ho il dono di evangelista ma non sono in grado di spiegare alcune dottrine bibliche, accetterò ciò la guida di chi ha il dono di insegnamento. Questo significa accettare il dono dell'altro, pochi tuttavia lo hanno compreso. Purtroppo, l'esperienza insegna che chi ha il dono di profezia o di insegnamento pensa di dover dire l'ultima parola. In merito ad altri compiti, come colui che presiede, pensa di poter dire l'ultima parola in tutto. Questo è il dramma dell'esercizio dei doni. Occorre quindi che ogni credente sia cosciente dei propri doni e in seguito agisca con una certa autorità solo nell'ambito di sua competenza. Anche il predicatore più consacrato e fedele non dovrebbe intromettersi con autorità in una conduzione di chiesa, perché questa concerne i conduttori. Ma poiché il tema dominante delle nostre riflessioni è stato l'amore, quell'amore che procede da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta, occorre accettare con molta serietà che il collante della comunione fraterna non sono i doni, e neppure l'esercizio dei doni, ma l'amore messo in pratica. Quell'amore meno, e non è troppo ripeterlo, meno, che è paziente, che è benigno, che non è invidioso, non si mette in mostra, non si gonfia, non fa nulla di sconveniente, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma si rallegra del trionfo della verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa e sopporta ogni cosa. Parole note, ma che messe in pratica hanno il potere di farci diventare simili a Dio. Vi è forse qualcosa di più grande? Marzo 2008. I doni della persona dello Spirito Santo al servizio della Chiesa. Ellero. I doni della persona dello Spirito Santo al servizio della Chiesa.